L'ospite internazionale di oggi è Laurent Businelli. Benvenuto, Laurent! Buonasera. Oggi grande puntata. Come sentite, abbiamo anche il pubblico dal vivo qui in studio. Oggi abbiamo Un una vera pubblico, star. Fabrizio, un pubblico che ha fatto a botte per entrare allo studio. Abbiamo dovuto lasciare fuori una trentina di Spazio la persone. fila, sono rimasti in fila fuori. Laurent Businelli. Allora, prima domanda: perché tu parli l'italiano? Che ho vissuto 13 anni in Italia. Oh, ma il tuo nome di famiglia ricorda, ha un'origine italiana. Sì, il mio bisnonno era italiano, però non ero mai andato in Italia prima degli anni 90. E che effetto ti ha fatto essere chiamato finalmente come ti chiami, cioè Businelli, non Businelli? Eh? Che effetto ti ha fatto? È strano. Sì, eh? A certe volte, vedi, la Sì, lingua. però il loro hanno un po' di difficoltà, gli Sì, italiani. beh, quello sì. E come ti chiamavano? Laurent? Laurent, A sì, Laurent. Laurent. Comunque, abbiamo creato un po' di attesa per la tua città. Allora, la tua città è Bordeaux, Sì, la più bella. famosissima per il vento, la città più ventosa di Francia. No, è il vino, l'Atlantico, è la più bella città di Francia, dai. Ah sì, va Sì. bene. E quindi allora non è il vento, perdone. Io ho sempre studiato che è la città più ventosa del mondo. No, è qui il Ah, il vento. vento è qua, ok, vabbè. E quindi, vabbè, nella campagna di Bordeaux si produce il vino, avremo modo di parlarne, perché chiaramente, secondo lo stereotipo, se tu vieni da una città che produce vino, sei un esperto di vino. Sì, esperto, E quindi quella è la parola giusta. parleremo anche di questo. E quindi hai detto, hai vissuto 13 anni in Italia e ci sei andato senza mai andarci. Quindi tu l'hai imparato da solo Sì, all'inizio ho cercato lavoro, parlavo inglese, poi ho visto che non era Non caso, serviva. dunque ho comprato un metodo per imparare l'italiano, ho imparato e ho trovato lavoro quando parlavo italiano. Ah, perfetto. Quindi va bene, avremo modo di parlarne. In questi 13 anni, tu, da francese che non era mai stato in Italia, cos'è che ti ha colpito di più? Arrivando in Italia, in questa città. Ah, però, che città era? Possiamo Era dirlo? Pescara, Quindi, città sul mare, città molto sul ventosa, mare, quindi sei trovata sera, è benissimo. sempre il vento. Producono vino, quindi sei tornata a casa. Sì. Ma quello che mi ha colpito, la prima cosa, è ci sono tante macchine, grosse macchine nuove, belle, tutto quanto. Ho detto, wow, gente ha soldi e tutto quanto, con la gente super, Ben super ben abbigliata. abbigliato e tutto quanto. È quello che mi ha colpito. La moda italiana si vedeva sulla città, dai, è quello che. Poi dopo ho visto che. Sì. E quindi ti aveva colpito l'estetica della Sì, l'estetica, gente. sì, belle donne, belle ragazze e tutto quanto. Ho capito. Quindi città di mare, tu abituato all'Atlantico, invece Sì, lì il mare dunque Adriatico Adriatico, piatto, piatto e soprattutto nessuno. si poteva prendere il sole senza il paravento, senza avere la Sì, necessità di quello era ripararsi. bello, però io sono dall'Atlantico, dunque il mare vivo che si muove con. Sì, dai, che io giocare nell'onda, io ho imparato a nuotare così. Sono arrivata qui nell'Adriatico, niente, Beh, boh. però hai potuto Sì, fare più bagni, scusa, eh. Già da maggio potevi fare il bagno, però nell'Atlantico a a maggio. Pescara puoi camminare verso il Sulla riva. mare. Per 5 minuti arrivi, hai l'acqua fino ai ginocchi, dunque non è che. Invece in Poi no. Atlantico subito a fondo. Sì, ma è dopo alle onde che ti Sì. passano sopra la testa. Quindi diciamo, non hai rischiato la vita a Pescara. No, no, Ah, è quindi. andato Quindi sei bene. I miei stato. figli ho imparato a nuotare qui a Pescara, sono ancora qui. Dai. Quindi è come nuotare in una vasca, Sì, una vasca un po' larga, però una Ah, vasca, dai. benissimo, vabbè, comunque tutto ha il suo vantaggio. Benissimo, piccola pausa musicale, torniamo con il nostro ospite. Ritorniamo in studio dal vivo con il nostro ospite Laurent Businelli. Benvenuto, Laurent. Laurent, allora, avevamo accennato al vino, vino italiano, vino francese. Tu non riesci a non vivere in un luogo dove non Sì. producono vino. Allora, subito dici, qual è il migliore? Lo Naturalmente. devo dire qui? Sì, dillo, non Laurent, abbiamo paura, dillo, no, dillo. allora, Laurent, ti vogliamo spiegare una cosa. In base alla risposta che dai, qui c'è un dispositivo che permette di rimanere chiuso tutta la notte dentro Radio Alma. Dunque siamo qui per un tempo lungo, no? Si chiama sedia elettrica il dispositivo. No, ci sono buoni vini italiani. No, dai, sono di Bordeaux. Dunque, quindi i vini ventosi ti piacciono? No, sì, va. Una cosa, tu so che sei un cuoco, ti piace cucinare. Sì. E, hai mai abbinato alla cucina francese, nouvelle cuisine, un vino italiano, o sarebbe una parolaccia? Non si può dire, non si può fare. Non si può fare. Sì, si può fare, perché ci sono ottimi vini italiani. Dunque... Quindi con un bel piatto, con un'oliva, un ravanello, quale vino abbineresti a un piatto di nouvelle cuisine? Ah, no, non li conosco abbastanza bene i vini italiani, però dai, un vino di Sicilia... Bello forte, che compensa sì, la povertà del piatto, dei sapori, va bene. Sì. E quindi va bene, e allora giusto così per fare, facciamo un po' di pubblicità, un nome di un vino di Bordeaux. Di Bordeaux, il Bordeaux Grave. Da abbinare con? Con la carne, dai. Tutta rossa, bianca, qualsiasi sì, carne. Sì. Ma questo è un vino un po' particolare, perché rimane sul palato e ti devi... Si attacca. Sì, si attacca. Dunque... e invece un vino italiano, questi qui d'Abruzzo che tu hai conosciuto, perché si dice che è un vino ignorante quello lì. Ah, sono ignorante, no? Quindi, per tutto il resto, a colazione può funzionare, va bene. Fabrizio, secondo me qualcuno in Abruzzo a colazione se lo fa Sicuramente. Benissimo, allora parliamo delle tue esperienze italiane, perché questo programma vuole combattere gli stereotipi, e quindi noi vogliamo gli stranieri in studio che ci raccontino gli italiani. Allora tu, da straniero che non parlavi l'italiano, sei arrivato in Italia e hai dovuto lottare per la sopravvivenza. Ah, sì, perché la prima volta che ho cominciato a lavorare, dunque, in italiano, pensavo di parlare italiano, però ho visto la gente intorno a me che parlava un linguaggio che era un po' simile all'italiano, però non era italiano, perché non capivo niente. E dunque sono i dialetti in Italia, ogni piccolo villaggio ha il suo particolare, dunque fra di loro non so come si capiscono, io non li capisco. E poi... sei accettato dentro un gruppo di amici quando sai rispondere, sai che capisci il dialetto, dunque sai rispondere una battuta in dialetto. Dunque, l'italiano è inutile, ci vuole il dialetto, ce ne vogliono non serve tanto, se non viaggi in Italia l'italiano non serve tanto, dunque... il dialetto, quindi per comunicare, per entrare, per conoscere veramente gli italiani ci vuole il dialetto. Sì, ci vuole il dialetto. E quindi tu quanto tempo hai impiegato a imparare il dialetto? 13 anni. 13 anni? E invece l'italiano in quanto tempo? Ma l'italiano è molto simile al francese, dunque in 2 anni lo parlavo abbastanza bene per lavorare. Beh, quindi riflettevo, tu hai passato 13 anni di solitudine in Italia. Un po' era complicato. C'era il vino abruzzese. Quello consolava. Il vino, il formaggio, arrosticini. Quindi quel ti consolavi così. Sì. E quindi questa cosa è molto interessante, perché effettivamente... l'idea che l'Italia si è divisa in dialetti è reale, cioè proprio è una realtà. E quindi uno straniero sicuramente, gli stranieri che ci stanno ascoltando riscontreranno gli stessi problemi. Loro studiano l'italiano per andare in Italia e poter parlare, arrivano e non parlano con nessuno, non capiscono niente. Sì, la gente sulla piazza del villaggio non parla italiano. E questo è un problema. E questo è un problema per gli stranieri. E come tu dov'è che lavoravi? Perché a Giulianova. Giulianova. Quindi il giuliese è anche un dialetto giuliese, che non possono vedere i teramani, che non possono vedere. L'Italia è così, è divisa. Non è ancora un paese, è divisa. Sì. Ma dimmi una cosa, c'è una frase, non so se sia del dialetto di Giulianova. Pirti pigli ti chi nilbi rupini di civotte, per caso? Forse però è simile a quello che... Se non è di Giulianova è di lì vicino, e significa porti più sfortuna tu di un albero pieno di civette, questa era la frase. Va bene. È complicato da passare è una frase da dire al suo peggior nemico. Sì, ma io avevo dei compagni di classe che venivano da Giulianova, e quindi sì, effettivamente capirli era un po' grosso problema. Ma ti racconto, in questo mi dai lo spunto per raccontarti un fatto che è successo a me. Il primo giorno di scuola, anch'io arrivato in Abruzzo, avevo di fianco a me un compagno che veniva da una piccola cittadina più nell'interno, verso la montagna, E noi ci parlavamo e io gli dicevo sì sì, lui parlava, io dicevo sì sì, e non capivo niente, come sai quando tu parli con uno straniero, lui ti parla, tu dici sì sì sì, ho capito, ma senza capire. Io gli parlavo e lui mi rispondeva sì sì sì sì, e non capivo niente. L'anno dopo ci siamo confessati che quel primo giorno di scuola non ci eravamo capiti, solo un anno dopo abbiamo avuto il coraggio di... Quindi è una cosa, anche tra gli italiani è difficile comprendersi, quindi capisco il problema degli stranieri. Benissimo, e raccontami come ti sei trovato in Italia, cioè tu che ci sei andato a vivere, a lavorare, a parte la difficoltà di parlare con qualcuno, tu eri solo, proprio abbandonato a te stesso. No, la gente è molto simpatici, dai, un italiano che sa due parole francese cerca di darteli, di parlare con te. La vita giorno dopo giorno è un po' più complicato con l'amministrazione, le file alla posta per pagare o per prendere i soldi. Io mi sono ritrovato una volta, una delle prime volte che siamo andati al supermercato, abbiamo voluto fare un assegno, perché in Francia si faceva molto gli assegni. Quindi lo chèque. Lo chèque. E siamo ritrovati, la gente ci ha fermata, hanno chiamato la banca a vedere se hanno soldi sul conto e tutto quanto, e 10 minuti solo per pagare la spesa, che di solito prende 2 minuti. Adesso con le carte carte di credito un po' più facile, però all'epoca... Allora erano sorpresi vedere degli stranieri che pagavano con un assegno. Beh, da noi l'assegno era il modo di pagare più diffuso. Pensa un po'. Invece tu pensi, in Italia si usava il denaro, i soldi si usavano per pagare. No, quello anche gli italiani quando vanno a pagare qualcosa o anche una cosa importante dove ci vuole soldi, cacciano le carte con i biglietti da 200, 500 euro. Dai. Solo in Italia li usano, il resto del mondo... Mai visto, qui in Belgio mai visto in 6 anni, dunque. E quindi queste erano le difficoltà della vita. E invece, per esempio, i tuoi figli a scuola, come si sono trovati con... La scuola è andata bene perché hanno avuto un prof molto, molto interessante. Dopo... con gli anni un po' più si è un po' degradato, un po' diventato un po' più difficile con sì, perché la scuola in Italia non ha molto soldi. Dunque, come erano alla scuola più pubblica, alla fine sì, non c'erano i coperchi alla mensa, non c'erano la carta, l'organizzazione italiana, sì, sì, sì, sì. Anche qui quando siamo andati in ospedale per la prima volta per una visita qui in Belgio, che Leo, che è mio figlio maggiore, ha visto l'ospedale, lui non ci credeva che un ospedale poteva essere così, dunque la testa in alto a vedere, wow, è così. Beh, sì. Ma era andato in gita in ospedale o era andato, no. Si era ammalato? No, era solo una visita di controllo. Però. Ah, ecco, per vedere l'ospedale. Sì. Vabbè, e quindi invece diciamo l'ospedale italiano era un po' più fatiscente? È un po' più, sì, un po' più complicato. Sì, sì, sì. Vabbè. Sì. E benissimo, e dimmi una cosa, viene rimproverato alle città italiane il problema del parcheggio, il problema del traffico, tu l'hai riscontrato, no? È come Bordeaux, no? Non c'è problema di parcheggio in Italia, dove vuoi parcheggiare parcheggi in Italia. E questa cosa che gli italiani guidano male, sono molto sportivi in auto, no è stereotipo. No, ma non ho mai visto un italiano superare la velocità autorizzata, mai. Sappiamo, noi siamo posti a cancellare questi stereotipi che ci dipingono in maniera così negativa. Benissimo, piccola pausa musicale, ritorniamo con il nostro ospite Laurent Businelli. Presentare in questo programma finalmente un giovane. Vogliamo essere attenti al mondo giovanile, vogliamo conoscerli, capirli e, perché no, ispirarci a loro per rendere il nostro programma più moderno, al passo coi tempi. Gentile pubblico di Barbecue, è un piacere dare il benvenuto nel programma al giovane Pasquale Ciccio Panza. Oh, Grazie, prego, sei molto irruente. Non siamo abituati ad un ospite così. Lo so, è una caratteristica genetica di noi giovani. Riempiamo i vuoti con le parole, che poi aggiungiamo parole per riempire le parole, che riempiono i vuoti, che non stanno bene nei discorsi. Noi dobbiamo parlare. Scusa, facciamo capire cosa intendi dire ai nostri radioascoltatori. Stai calmo. Respira. Cosa intendi dire con i vuoti che non stanno bene nei discorsi? Non stanno bene nei discorsi perché i professori pensano che non hai studiato e loro ti fanno domande su domande su domande su domande su domande su domande alt, domande domande alt, domande alt, alt, alt, alt. Abbiamo capito. Quindi parlare continuamente serve per non farsi fare le domande. Vedi che capisci? Ti credevo più vecchio. Quanti anni hai? Ti piacciono le ragazze? Te le fai le canne? Ci vai ai concerti? Giochi a calcio? Ma, non so a quale rispondere. Facciamo così. Io ti faccio le domande e tu rispondi, va bene? Mi metti i voti? Allora io comincio a parlare e non mi fermo più, così tu non hai il tempo di farmi le domande perché io parlo solo io e tu mi ascolti, Stop! Stai tranquillo, noi non mettiamo i voti, vogliamo sapere di te, cosa fai? Vogliamo conoscere il mondo dei giovani. Allora va bene, in quelle cose sono preparato, so tutto e non ne sbaglio una. Ecco appunto, stai calmo. Non sei a scuola. Io non sono un professore. Sei qui a parlarci del mondo dei giovani. Dici Pasquale, cosa piace ai giovani? A noi giovani ci piacciono tante cose, ma soprattutto le ragazze. Beh, questo è molto bello, ma al di là delle normali pulsioni tipiche della tua età, della vostra età, di che cosa si interessano i giovani? Di tante cose, ma soprattutto di ragazze. D'accordo, ma guardiamo al di là delle ragazze. Che cosa amano i giovani? Proprio amare? Sì, amare, appassionare, dedicare. Tutte quelle cose che si fanno con le ragazze. Allora, diciamo che nel tempo che vi resta, nel tempo libero, che cosa fate? Nel tempo che ci resta, che è veramente poco, guardiamo la TV, ascoltiamo la musica, vediamo gli amici, giochiamo a calcio, navighiamo su internet, mangiamo la pizza, mangiamo la pasta, la bistecca, la frutta. Ma alt, non ci interessa l'elenco delle attività. Quello che volevamo sapere era qualcosa di più intimo, in senso, diciamo, concettuale. Che sei un professore? Cosa volevi dire con quella parola? Non è un insulto. Vogliamo solo conoscere il significato profondo del pensiero dei giovani. Il significato del pensiero dei giovani, che a noi ci piacciono le ragazze. Noi pensiamo alle ragazze, noi abbiamo assimilato il concetto di ragazze, noi sperimentiamo il concetto di ragazze, tutti sui nostri, tutti pori se baci. Mamma mia, che brutta immagine. Ma tu, ti piacciono le ragazze? No, sì che mi piacciono. Ho detto che è una brutta immagine. Certo che ci sono quelle brutte che hanno una brutta immagine, ma non sta bene dirlo. Non è quello che ho detto, insomma, dai, non mi riferivo all'estetica, ma all'immagine che tu hai espresso con quell'associazione concettuale con i pori. Certo, le ragazze sono il pensiero unico, assoluto, non avrai altro dio all'infuori di loro, delle ragazze. Guarda, poi col tempo questa cosa passa, La vita è solo una filosofia, conoscere le ragazze, e questa attività mi prende tutte le energie. Sì, però tu non dovresti trascurare lo studio, la tua età. Io studio tantissimo, come conoscere le ragazze, come parlare alle ragazze, come farsi guardare dalle ragazze, come legare le ragazze, come guardare Vabbè, allora parliamo di come fai a conoscere le ragazze. Per conoscere le ragazze bisogna prima scovare le loro tracce. Seguirle per giorni, mimetizzarsi nei cespugli e rimanere sempre sotto vento, altrimenti ti fiutano e scappano. Oh, ma cos'è un safari? Per partecipare alla caccia bisogna vestirsi in maniera adeguata. Sarebbe? Il miglior vestito è quello che fa girare le ragazze. Deve essere eccentrico, colorato, inadeguato alla situazione. Il più efficace è lo stile revival personalizzato. Non ho proprio idea di che cosa si tratta. Lo vuoi sapere? Vuoi che te lo dica? Lo stile revival personalizzato consiste nel recuperare negli armadi e/o bauli e/o scatoloni e/o valigie e/o soffitte e/o garage e/o cassetti e/o cantine e/o vecchie zie e/o parenti e/o familiari estinti e/o mercatini e/o stracci al macero e/o. Calma, vieni al punto. Che cosa bisogna cercare? Capi d'abbigliamento in disuso e/o fuori moda e/o abbandonati e/o dimenticati e/o dimessi e per l'estinzione del proprietario e per l'estinzione del capo stesso. Insomma, dai, vecchi. vecchi, abiti inutili o inutilizzati, tipo i costumi teatrali. Ma tu come ti vesti per conoscere le ragazze, quindi? Dunque, due punti. Vai. Camicia bianca larga, con i maniconi larghi, a cascata, con ricami e merletti. Il collo lungo, largo, ondulato, diritto, a raggiera, inamidato. Oh, aspetta un attimo. Ma che camicia è? Io non ho mai viste di così, eh? Con il collo largo, tondo, come la torta alle meringhe. Se vai al Louvre ne vedi tante. Ah, la gente al museo del Louvre si veste così? Indossa davvero questo tipo di camicie? Ma no! Ma sei simpatico! Ma quali visitatori? I dipinti! Ma come i dipinti? I personaggi nei dipinti, vorrei dire. Sì, sì, proprio quelli, tutti estinti. Ma in quali dipinti? Nei fiamminghi. Ma è una moda vecchia quella lì. Sei riuscito ad avere una camicia così? Mica solo la camicia, oh! Anche la giacca con le punte, i pantaloni a sbuffo. A sbuffo? Ma come sono i pantaloni a sbuffo? Sono larghi sopra, poi si stringono sotto. Ci metto sopra le calze bianche e si girano tutti a guardarmi. Sono come quelli della cavalleria. La specie. Quindi lo stile Luigi XIV piace ancora alle ragazze? Piace. Le fa impazzire, oh! Le ragazze lo adorano, restano sbalordite, senza parole, basite, sbigottite, stupite, turbate, sconvolte. Va bene. Quindi è una questione di stile. Essenzialmente, sostanzialmente, principalmente. Abbiamo capito. Quando le ragazze ti incontrano vestito così, come reagiscono? Si voltano a guardarmi, tutte, camminano tristi, imbronciate. Poi mi vedono e mi sorridono, poi ridono tutte, oh! Non resiste nessuna. Lo stile è tutto. Mio nonno mi ha spiegato che se attiri la loro attenzione e le fai ridere, le hai conquistate. Oh, mio nonno lo sa, Ha fatto la rivoluzione sessuale quando era giovane. Quindi questi sono i consigli che ti ha dato tuo nonno. Certo, devi provare. Vestiti così e vieni con me, vedrai che risate. Se non ce le hai te... E li presto io! Facciamo magari un'altra volta, Ti dobbiamo proprio salutare. Quando tornerai a trovarci la prossima volta, ci racconterai delle tue conquiste. Sì, sì, sai quante ne ho! Va bene, la prossima volta! Ciao Pasquale! Ciao! Ritorniamo in studio con il nostro ospite Laurent Businelli. Laurent! Siamo arrivati al punto... Mai sentito il mio nome così, eh? Businelli, Laurent Businelli. Allora, adesso un gioco che facciamo sempre quando abbiamo un ospite internazionale in studio è quello di leggergli una frase. L'ospite deve indovinare se è stata detta da un italiano o da uno straniero. È una frase che riguarda gli italiani. Allora, ascolta. Essere italiani non è la conseguenza di una coincidenza geografica, ma piuttosto... una scelta, una vocazione, un grado di maturità dello spirito. Secondo te chi l'ha detto? Un italiano o uno straniero? Questo è un italiano. Un italiano, questo, Luigi Barzini, tratto dagli italiani nel 1965. Allora, adesso la commentiamo però. Allora, essere italiano secondo te è veramente un grado di maturità dello spirito? Cioè, bisogna... C'è una mentalità italiana, dai, sì. Un po' il sorriso nella voce, dai, un po' allegria di vivere. Ah, dai. Che non è stupidità di vivere, è allegria. Allegria. E dimmi una cosa, ma dopo 13 anni tu hai assunto la maturità dello spirito per essere italiano o sei sempre rimasto non penso, estraneo? Sono sempre un po' nordico io. Straniero, Sì, allora Italia del Nord. Dimmi una cosa, vivere in Italia fa soffrire uno straniero? Uno straniero soffre in Italia? No, perché l'Italia, dai, è dolce vita, è un po'... Però è complicato qualche volta, sì. Allora adesso ti leggo questa frase e mi dici se è giusta. Essere francesi non è la conseguenza di una coincidenza geografica, ma piuttosto una scelta, una vocazione, un grado di maturità dello spirito. Si adatta ai francesi questa frase o no? No. No? Cosa sono i francesi? Spiega. Sono così diversi. Essere francesi non è nello spirito. Non lo so, dai, essere francese. Francesi sono contenti di essere francesi, comunque quindi... sì, abbastanza un po'... Non soffrono per questo? No, no, no, no, perché sono... ho una molta, molta stima di loro stesso, dai. Quindi... Francesi amano i francesi. Dimmi una cosa, quando sei venuto a abitare in Italia, prima di partire, no, ti hanno detto, tu vai a abitare in Italia, cosa che ti dicevano? Stai attento? Sì, sono tutti ladri, sono... tutti mangiano, ladri. Mangiano male... No, solo pasta. Mangiano solo l'immagine che i francesi abbiamo degli italiani è la caricatura del napoletano. Ah. Dunque, pizza, pasta, sempre a parlare molto con i gesti grandi e tutto quanto, fregare un po', è quello l'immagine che abbiamo degli italiani. Ah, quindi questo è quello che ti hanno detto, stai attento che vai a Napoli, che potrebbe anche essere un augurio. I suoceri la prima volta che sono venuti, possiamo parcheggiare perché non ci fregano la macchina. Però Laurent, devi ammettere che in Italia non ha mai trovato gli spaghetti bolognese. No, mai visto. Vedi? Ho mangiato spaghetti, però bolognese mai. Quindi tu l'hai mangiato col pesce, immagino. Quindi tu adesso sei l'ambasciatore. Tu vai a spiegare ai francesi che l'Italia non è solo quella che... Sì, è molto più interessante che la superficialità dell'immagine che abbiamo. Perché sai cos'è? Per esempio, adesso noi italiani siamo così caricaturati, no? Siamo una macchietta, che... difficile per noi avere un'idea, diciamo, tipica di uno straniero. Cioè, a parte dei francesi, a parte la baguette sotto il braccio, non esiste nessun'altra immagine del francese. Sì, il vino anche... La R. Sì, ma quello ce l'hanno, anzi non ce l'hanno, quindi è loro. Però in Italia è difficile trovare... a parte forse un semplice aspetto, uno stereotipo profondo delle altre nazioni. Possono essere i tedeschi, gli inglesi, difficilissimo. Cioè, gli inglesi bevono il tè, cioè, non si va molto più in là. Gli italiani forse sono talmente pieni di sé che non guardano gli altri. Molto immagine dell'Italia, dai. Sì, vabbè, quindi ti hanno detto anche che suoniamo il mandolino noi. Quindi tu cercavi il suonatore di mandolino ovunque. Sì, mandolino, cantano sempre. Sì, vanno alla messa. Quello, la religione, calcio, vanno insieme qualche volta. Quello l'Italia. L'Italia invece, calcio, invece sì. Francesi, rugby. Il sud della Francia, sì, rugby. Il nord, non ce ne frega niente, sono al nord. E dimmi una cosa, ma ti volevo chiedere, per quanto riguarda, sempre ritornando al linguaggio, diciamo i modi di dire i tipici italiani, perché noi stiamo pensando di creare una trasmissione dove spiegherà agli stranieri il significato del vaffanculo italiano. Perché il vaffanculo non è quello che tutti credono, è una filosofia. È un concetto metafisico. Esatto. Noi, è la fine di una frase. Ma soprattutto è uno spirito, il vaffanculo è uno spirito, non è... E quindi dimmi una cosa, quando tu hai sentito dire, hai cominciato a sentir dire spesso e in tante occasioni utilizzato in modi diversi questa frase, ti sei sentito insultato o una volta che ti hanno detto vaffanculo e questo è un mio amico finalmente, sì, siamo quello, in confidenza? È quello, adesso sì, siamo in confidenza. No, perché... All'inizio, perché mi dice quello? No, perché mi è successo a me, giocando a pallone, un avversario qui in Belgio, mi ha buttato per terra, io mi sono girato e ho detto, oh, ma vaffanculo. Questo si è arrabbiato, sembrava Zidane alla finale mondiale, mi voleva menare, ho detto, ma ti rendi conto? Ti ho detto solo vaffanculo, forse, si è arrabbiato ancora. Ma forse è quello che Materazzi gli disse, lui non lo sapeva, si è arrabbiato. Si è arrabbiato, veramente, era pronto a scatenare una rissa, ho detto, ma che roba è? Per un semplice vaffanculo, una piccola cosa, una roba da niente. Allora, per quello te lo chiedo. Sì, però in francese è molto più importante come parola in francese. Voi non dite vaffanculo. Dite vaffanculo. Dicono parbleu. Vate faire enculer, sì. Ma non è la stessa cosa, è una cosa grave quella. L'equivoco è lì, perché è il pensiero assoluto. Cioè, veramente, a livello filosofico, quella frase italiana è il pensiero, è persino sulla la Divina Commedia di Dante. detta in maniera più poetica, ma ha detto la stessa cosa. Qui, cioè, qui Daniele, dobbiamo fare una puntata su questo, dobbiamo assolutamente fare, spiegarlo, perché sennò qui rischiamo sempre di litigare. Quindi dici, però allora l'ospite deve essere uno che non se la prende, però. Sì, sì, ma vabbè, se no facciamo proprio una lezione di questo. Va bene. Sarà una puntata. Però porti anche la Divina Commedia. Assolutamente, sì. Sì, sì. L'estratto della Divina Commedia nell'inferno c'è. Quindi, insomma, praticamente ero tu il giorno che te lo sei sentito dire, ah, finalmente sono i miei amici. Sì, ero contento. Sì, e questo bisogna dirlo agli stranieri, perché loro se no si offendono, vanno in Italia e pensano di essere nel caos. No? Invece no, c'è tutta una logica. Fabrizio, dovremmo inventare una medaglietta che diamo ai nostri ospiti che vengono qua, che se la se la mettono così, almeno, capito, sono entrato nel club. Una volta, anzi, potremmo anche chiudere tutte le puntate così. Oh, va bene. Va bene, io direi facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in studio per i saluti finali con il nostro ospite Laurent Businelli. Per mantenere alto il livello intellettuale del programma, ci colleghiamo ora con un ospite che, vista la sua professione, ha il compito di garantire ai nostri radioascoltatori i contenuti culturali ad un livello di eccellenza, almeno pari a quello dei nostri ascoltatori. Professore? Professore, ci sente? Passa un minuto e non succede niente. Passa un altro minuto e non succede niente. Passa un altro minuto e non succede niente. Professore? Passa un altro minuto. Professore? E non succede niente. Professore, la interrompiamo. No, no, non sono in un momento di stasi. Di stasi? Intende dire di riflessione, forse? No, di stasi. La storia è arrivata ad un momento di pausa, di stallo, di evoluzione silenziosa. La brace che cova sotto la cenere. Ad un momento morto, si dice. Morto? Morto? Si fa presto a dire morto. La storia non muore né dorme. La storia avanza, anche quando sembra ferma. Parla anche quando smette di parlare. Lo storico deve saper ascoltare anche i momenti in cui essa tace e deve raccontarli. Ma passa, ci faccia capire, intende dire che anche i momenti in cui nella storia non succede nulla sono interessanti da raccontare? Sono i più interessanti da raccontare. Nessuno li racconta perché la storia si studia male. Velocemente, superficialmente, inutilmente, relativamente, scioccamente, tristemente, tuttamente. Professore, abbiamo capito. Quindi lei, nelle sue lezioni, possiamo dire che insiste particolarmente su quei momenti in cui non accade nulla. Succede sempre qualcosa. Lo spiego ai miei studenti quello che nessun altro professore o libro di storia spiega loro, i momenti di silenzio. Ah, molto interessante. Possiamo ascoltare una sua lezione? Certamente. Ma quale sarebbe l'argomento di oggi? Le guerre puniche. Ah, le guerre tra l'antica Roma e Cartagine. A che punto era arrivato prima che la interrompessimo? All'assedio di Roma. Quindi, bene, siamo nella seconda guerra tra Roma e l'esercito di Annibale, che era sceso in Italia con gli elefanti attraverso le Alpi. Annibale, il condottiero cartaginese, decise di muovere verso Roma per alleggerire l'assedio da parte dei romani stessi della città di Capua, sua alleata. Durante il tragitto saccheggiò e devastò tutte le città che incontrò sulla sua strada. Ha una voce storica, professore, lei, eh? Arrivato a Roma, mise il suo campo vicino alle mura, per essere visto e poter osservare la città eterna. Guardando intensamente le sue mura, strinse leggermente gli occhi e cominciò a pensare al modo di conquistarla. Pensa un minuto e non succede niente. Pensa un altro minuto e non succede niente. Pensa un altro minuto e non succede niente. Pensa un altro minuto e non succede niente. Pensa un altro minuto e non succede niente. Professore, pensa un altro professore, minuto. Professore, ci scusi. Ma per quanto tempo il condottiero Annibale è rimasto a pensare davanti alle mura di Roma? Per 2 mesi. Ah, però, non si potrebbe saltare questa parte e arrivare all'epilogo dell'assedio? Anche lei è come tutti gli altri. Scusi, ma che cosa intende dire? Anche lei vuole la storia raccontata in momenti separati tra loro. La storia come un film d'azione, un fumetto con le nuvolette sopra le teste dei personaggi, il rumore delle armi, bing, tung, pum, ping, pa, tung. Ma no, professore, è che ci sembra un momento poco importante, con tutto quello che è successo, cioè non succede niente, è inutile raccontarlo. Secondo lei, quando un generale studia l'avversario non succede niente. Quando un comandante sta elaborando la sua strategia in silenzio, solitario, alla luce tremolante della fiamma, non sta succedendo niente. Questo è il momento più importante della storia. Ah, però. Quello che porterà le conseguenze del pensiero, che porterà l'azione. È quello che superficiali come lei Grazie. Sono abituati a leggere sui comuni libri di storia. Libri che raccontano secoli di storia in poche righe, in nozioni inutili, frammentarie, spezzettate, briciole di eventi, libri di storia come YouTube. Ma, professore, mi sembra di capire che lei, insomma, si è in disaccordo con il metodo di studio fin qui utilizzato per la storia. Da quello che ci dice, sembra di capire che i momenti della storia in cui non succede niente non siano solo i più importanti, ma anche i più lunghi. Bravo, comincia a capire. In ogni evento storico è presente una lunga preparazione ed uno svolgimento veloce, lesto, rapido, celere, solerte, alacre. Soprattutto veloce. Va bene, professore, abbiamo capito. Gli eventi si svolgono più velocemente rispetto alla loro preparazione. Fino ad ora la storia ha raccontato solo una piccolissima parte di ciò che è successo. Ci hanno fatto studiare dei riassunti incompleti, imperfetti, insufficienti, lacunosi, difettosi, certo, dei bignami. Certo che abbonda con gli aggettivi, professore, non sia prolisso, abbiamo capito, ci hanno spiegato solo una piccola parte degli eventi storici. A causa di un metodo di studio sbagliato, che io da solo, unico e isolato, combatto, raccontando tutta la storia, soprattutto quella tralasciata dai libri in uso in tutte le scuole del mondo. Bravo professore! Quindi nel suo metodo didattico i momenti morti della storia... Non esistono momenti morti nella storia. Momenti inutili quindi, diciamo. Cosa sta dicendo? Non esistono momenti inutili. Ma come li vogliamo chiamare questi momenti? Non hanno nome. Sono momenti della storia. Uguale a quello dello svolgimento dell'azione. Va bene, sono uguali, ma quando non succede niente e niente occupa gran parte del tempo, insomma la lezione un pochino, diciamo, diventa un pochettino noiosa. Ma quale noiosa? Questi sono i momenti più interessanti. Ma scusi, come li spiega ai suoi studenti? Quando non succede niente, gli spiego che non succede niente, senza interrompere la narrazione. Il racconto deve essere lineare, continuo, fluido. Non si deve perdere la percezione del trascorrere del tempo. Non si può saltare da un luogo a un altro, da un tempo ad un altro, così. Bisogna descrivere nei dettagli il cammino, lo spostamento. Beh, facciamo un esempio per far comprendere ai nostri radioascoltatori quello che intende dire. Se dovesse per esempio descriverci la lunga marcia di Mao Zedong in Cina ai tempi della rivoluzione, come se la racconterebbe? Fa un passo, poi fa un altro passo, poi fa un altro passo, poi fa un altro passo. Oh, professore, professore, è stata di 12.000 chilometri, è durata più di un anno. Di questo passo quanto ci impiega a raccontarla? Più di un anno. Scusi, lo stesso tempo che è durata? Non si deve interrompere la continuità del tempo e degli eventi. Professore, ci ha convinti, il suo è sicuramente un metodo innovativo di studiare la storia. Esattamente, ma il Ministero non l'ha provato. No, come mai? Dicono che sia un metodo inconcludente, che sia troppo lento, noioso. Ma le hanno detto proprio così? Proprio così. Avevo invitato la commissione del ministero ad una mia lezione, perché potessero testare personalmente il mio metodo. La commissione è venuta, si è seduta tra gli studenti e ha seguito lo svolgimento. Ma di quale momento storico si parlava? Dell'Odissea. Ah, non poteva sceglierne uno migliore. C'è tanta azione, tanti personaggi, un poema epico straordinario. Come hanno potuto dirle che era lento e noioso? Tutto è andato bene fino a quando è arrivato il momento di raccontare di Penelope che il giorno tesseva e di notte disfava la tela. Vabbè, è un momento descrittivo secondario della storia. Era un espediente utilizzato da Penelope che serviva per allungare i tempi e tenere a bada i nobili che pretendevano di andare a nozze con lei. Non è un momento secondario. È un momento di grande azione e abilità, il nucleo della vicenda. Ma come il nucleo della vicenda? Ma il protagonista è Ulisse. Per i latini, Odisseo per gli ellenici. Professore, Penelope per 10 anni non ha fatto altro che tessere e disfare la tela. Come può essere il centro della vicenda? Questo era ciò che spiegavo. Quando sono stato brutalmente interrotto al 15° giorno in cui raccontavo l'azione di Penelope. Cioè, ininterrottamente, 15° giorno, non capiamo, professore, si spieghi meglio. Descrivevo dettagliatamente alla commissione ministeriale l'azione del tessere la tela svolta da Penelope. Un punto sopra, un punto sotto, un punto sopra, un punto sotto, un punto sopra, un punto sotto, un punto sopra, un punto sotto. Immagino anche un punto sopra, un punto sotto. Un punto sopra. E l'hanno interrotta a un certo punto? Sì, brutalmente, al 15° giorno di lezione. Forse perché non vedevano progressi, hanno anche durato parecchio, eh? Per forza, la notte descrivevo come Penelope disfava la tela. Un punto sotto, un punto sopra, un punto sotto, un punto sopra, un punto sotto, un punto sopra. Mi hanno detto che non avevano 10 anni di tempo per ascoltare tutta la storia della tela di Penelope e se ne sono andati. E così il suo nuovo metodo didattico non è stato accettato dal ministero. No, ma io non mi arrendo. Continuerò a seguirlo e a diffonderlo tra i miei studenti. Bravo professore, non si arrenda. Ora dobbiamo lasciarla e continuare con il programma. La salutiamo e ringraziamo. Ci ha fatto un gran piacere ascoltarla. Le diamo appuntamento in una prossima puntata per saperne di più del suo innovativo metodo didattico. A risentirla, professore. Grazie. Un punto sotto, un punto sopra, un punto sotto, un punto sopra. Tiranno e siamo ormai arrivati alla fine. Ringraziamo il nostro ospite Laurent Businelli per essere venuto qua. Ringraziamo questo incredibile pubblico. Fatevi un applauso, bravissimi. Grazie per essere qua, pubblico grandiosi. Salutiamo anche quella trentina che sono rimasti fuori, che sì, loro li ringraziamo lo stesso. E a loro ricordiamo che siamo anche su Facebook e Barbecue, fate like alla pagina così avete tutti gli aggiornamenti, che ci potete ascoltare anche in macchina o a Bruxelles sul 101.9 in streaming e ci potete anche insomma trovare sul blog della radio prossimamente, ce l'hanno promesso. Sì. E chi volesse venire ospite in studio o partecipare come pubblico vivente, basta che contatti attraverso la pagina Facebook la direzione e noi saremo lieti di ospitarla. Sì, e deve firmare una liberatoria per dire che non mangerà mai più gli spaghetti alla bolognese. Assolutamente. Grazie ancora per l'ascolto a tutti quanti, a risentirci mercoledì prossimo. Ciao!